Il principe e il povero. Molto tempo fa, quando re Enrico VIII regnava a Londra, accadde uno strano incidente. Due bambini nacquero lo stesso giorno alla stessa ora. Uno era nato nel palazzo e divenne così un principe, mentre l'altro era nato da una famiglia molto povera e rimase povero. La famiglia del povero si trovava a poche miglia di distanza dal palazzo e così andavano le cose. Al principe Edward spettava il miglior cibo e il miglior abbigliamento. Il povero, che si chiamava Tom, doveva chiedere l'elemosina per un singolo boccone e non indossava altro che stracci. Mentre entrambi crescevano, un'altra coincidenza stava aspettando di essere rivelata: la strana somiglianza tra i due bambini. Tom, ragazzo inutile, non mi hai portato niente oggi. Padre, non voglio elemosinare. Pensi che qualcuno voglia farlo, sciocco? Se non farai l'elemosina, cosa mangeremo? E con questo atteggiamento sembri essere nato in un palazzo. Perché sei nato in casa di un povero? Ma come posso decidere dove nascere? Oh, zitto, sei un ragazzo ingrato. Esci e portami dei soldi. L'unica cosa buona nella vita di Tom era il professor Andrew, che insegnava in una scuola vicina. Ogni settimana portava con sé diversi libri e incoraggiava Tom a leggere. I libri sono il miglior amico di un uomo, Tom. Ti guideranno in ogni situazione. So che la vita è difficile per te. No, non lo sai. Nessuno lo sa. Dimmi, professore, perché non sono nato in un palazzo? Non voglio essere povero per tutta la vita. Questo non è giusto. Chi ha detto che devi essere povero solo perché sei nato in casa di un povero? Ma non è così che funziona? Il figlio di un povero è un povero, e il figlio di un re è un principe o una principessa. Ma man mano che cresciamo, possiamo scegliere di essere qualcun altro. In effetti, possiamo scegliere di essere chiunque vogliamo essere. Rispondimi, ti do due opzioni. Essere un povero o un uomo avido e disonesto? Chi preferiresti essere? Se l'unica altra opzione è quella di essere un uomo disonesto, allora preferirei rimanere povero ed essere onesto. Esattamente. Adesso capisci? Tu puoi sempre scegliere. Non importa se sei nato in un palazzo o in una piccola capanna. Essere onesti e nobili richiede coraggio, Tom. E so che tu hai quel coraggio. Ho fiducia in te. Grazie. Un giorno Tom si allontanò per cercare del cibo. Dopo aver camminato per qualche chilometro, raggiunse il palazzo. Rimase stupito nel vedere davanti a sé una struttura così alta ed enorme. Andò in giro e sgattaiolò tra i cespugli per dare un'occhiata più da vicino. Vide il principe Edward giocare con i suoi giocattoli. Ah, deve essere il principe. Vorrei poter vivere una vita da re. Ehi tu, ragazzo zozzo, come osi entrare in questa proprietà? Buttiamolo fuori dal palazzo! Proprio mentre i soldati prendevano Tom per buttarlo fuori, il principe Edward uscì correndo. Cos'è tutta questa confusione? Questo ragazzo cercava di entrare nel palazzo. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Tom Canty. Le mie scuse, Vostra Altezza, non intendevo fare alcun danno. Stavo solo sbirciando nella tua finestra. Sebbene indossasse abiti molto sporchi, Tom parlò con rispetto. Il principe fu incuriosito dal ragazzo. Portò Tom nella sua camera e gli offrì cibo e dolci. Tom non riusciva a credere di trovarsi in un vero palazzo. Sei molto fortunato, vorrei essere anch'io un principe. Non vedi niente di strano, Tom? Ci sono molte somiglianze nel nostro aspetto fisico. Lo stesso naso rotondo, capelli ricci, grandi occhi. L'ho notato, ma c'è una cosa molto importante. I posti da cui veniamo, ciò che conta in questo regno è se indossi costose tuniche o se indossi degli stracci. Non hai visto come mi hanno trattato le tue guardie? A loro non importava che tu ed io sembrassimo uguali, nessuno lo fa. Io non ci credo. Aspetta, perché non ci scambiamo i vestiti e mettiamo alla prova tutti? Sarà divertente. Non sono sicuro. Andiamo, Tom. Siamo amici ora. E così fecero. Tom ed Edward rimasero scioccati nel vedersi allo specchio. Wow, ci somigliamo! Ah, ma è tutto un sogno. Dobbiamo scambiarci i vestiti ora. Che fretta c'è? Lasciami testare le mie guardie. Uscirò da questa stanza vestito da povero e tu resterai qui a fingere di essere il principe Edward. Ma se... Non ti preoccupare, Tom. Tutto andrà bene. Adesso me ne vado. Mentre stava uscendo, il principe prese qualcosa dal suo armadietto e lo nascose nei suoi vestiti sporchi. Poi si diresse verso il cancello principale del palazzo. Le guardie nemmeno si accorsero di lui. Tom aveva ragione. Tutto ciò a cui tengono è quello che indosso. Non mi riconoscono. Edward uscì dal cancello e si voltò per rientrare. Ma le guardie lo fermarono. Aspetta! Fermo! Non ti lasceremo più stare vicino al nostro principe! Esci! Calmati! Sono il principe Edward! E io sono il re! Cosa? No che non lo sei! Pregò e pregò, ma le guardie non erano convinte. Così buttarono fuori il principe. Ragazzo, questo non sarà affatto facile! Dove vado ora? Il principe si allontanò dal palazzo e sfortunatamente venne trovato dal padre di Tom. Ragazzo inutile! Dove sei stato? Ho molta fame! Vai a prendere del cibo! Nessuno aveva mai parlato ad Edward in quel modo. Impaurito e confuso, si avviò alla ricerca di cibo. Mentre camminava per la strada, il principe Edward rimase scioccato nel vedere cosa aveva di fronte. Le persone nel mio regno sono così povere. Questo è incredibile. Sprechiamo cibo ogni giorno nel palazzo e qui non hanno abbastanza cibo nemmeno per due. Nel frattempo, Tom fece del suo meglio per convincere tutti in giro che non era il principe Edward, ma nessuno lo voleva ascoltare. Tutti intorno a lui sembravano confusi. E sta bene? Qualcosa sembra non andare in lui. Non lo so. Gli ho chiesto del Gran Sigillo d'Inghilterra e lui ha risposto dicendo che non lo sapeva. Lui è il principe, è suo dovere mantenere il sigillo al sicuro. Come può non sapere? Perdonami, ma è possibile che abbia dimenticato? Allo stesso modo sembra aver dimenticato di essere il principe Edward, non un certo Tom. Oh, signore, sarebbe terribile. La salute del re peggiora ogni giorno che passa e suo figlio perde la memoria. Oh, signore, salva questo regno. Tom voleva che Edward tornasse presto al palazzo, ma allo stesso tempo si rese conto che doveva prendersi cura del suo regno fino a che il vero principe non sarebbe tornato. Dopotutto, il principe Edward era suo amico e lui non voleva deluderlo. Tom era saggio e intelligente. Accettò i suoi compiti e imparò rapidamente. Tutti nel palazzo iniziarono lentamente a fidarsi di lui e si affezionarono al loro principe. Era un ragazzo colto. Il sapere che aveva accumulato leggendo i libri del professor Andrew gli era ora utile. La sua saggezza venne apprezzata. Era umile e generoso con tutti. Tutto andava bene fino a quando un giorno accadde qualcosa di triste. Re Enrico VIII morì. Tutti piansero per il loro re. Ah, mi dispiace per la tua perdita, ma ora è arrivato il tempo di incoronarti come nostro re. Cosa? Ma che fretta c'è? La gente del regno ha bisogno di te, principe, e ha imparato abbastanza. Così deve essere fatto. Organizzerò la cerimonia di incoronazione. Tom era amato a palazzo, ma sapeva benissimo che non era quella la sua vita. Non voleva essere incoronato re. Mandò i suoi uomini per le strade a cercare il principe Edward. Ma poiché le guardie non sapevano quale povero ragazzo cercare, tornavano sempre senza notizie. Tom iniziò a preoccuparsi per il principe. Ogni notte Tom desiderava con tutto il cuore che il principe tornasse. Edward aveva un altro problema. Una volta, camminando per le strade, Edward fu catturato da due truffatori che lo costrinsero a rubare. Anche se Edward non aveva realmente rubato, venne messo in prigione. Quel giorno sarebbe stato portato in tribunale. Edward era pronto al peggio, ma inaspettatamente... Vostro onore, c'è stato un errore. Le mie guardie hanno preso questo ragazzo pensando che fosse un ladro, ma egli non ha rubato nulla. Vi chiedo di lasciarlo andare, vostro onore. Edward venne liberato. Ringraziò l'uomo misericordioso e fece una piccola richiesta. Ho un messaggio molto importante da portare a palazzo. Il principe Edward viene incoronato re domani. Potresti per favore portarmi a palazzo immediatamente? L'uomo non credeva ad Edward, ma poiché anche lui desiderava partecipare alla cerimonia di incoronazione, accettò di portarlo con sé. Il giorno dopo, all'interno del palazzo, tutti si erano radunati per fare il tifo per il loro nuovo re. È un giorno storico per tutti noi. Oggi incoroniamo il nostro nuovo re, Re Edward! Sì, sì, Re Edward! Tutti erano molto eccitati. Proprio nel momento in cui la corona stava per essere messa sulla testa di Tom... No! Aspettate! Sono io il vero principe Edward! Cosa? Come osi? Guarda i tuoi vestiti! Guardie, arrestatelo! No! Lasciatemi andare! Guardie, mettetelo giù! Sta dicendo la verità, Lord St. John. Lui è il principe Edoardo e io sono Tom Canty. Ho provato a dirti tutto, ma non mi hai creduto. Com'è possibile? Se ancora non ci credi, allora ecco! Nessuno si è preoccupato per il gran sigillo d'Inghilterra? L'ho portato via con me quando ho lasciato il palazzo. Il principe Edward e Tom raccontarono l'intero incidente. Tutti furono scioccati nel sentire che il loro vero principe aveva vagato per le strade. Le mie scuse, principe. Ho provato a cercarti. Per favore, prendi il tuo giusto posto come re. Tom, sei un vero amico. Ti sei diligentemente preso cura dei miei doveri mentre ero via. Sono molto impressionato dalla tua onestà. Avresti potuto mentire per dimostrarmi il mio errore e portare via il mio trono. Vostra Altezza, sarò pure il figlio di un povero, ma non scelgo di essere un uomo disonesto. Sono così onorato di averti conosciuto, Tom. Accetteresti di essere il mio consulente personale? Il regno ha bisogno di saggezza e conoscenza. Ve ne sarei grato, Vostra Altezza. Non appena il vero principe fu incoronato come re d'Inghilterra, immediatamente fece dei grandi cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti del suo regno. Osservare la povertà in giro lo aveva commosso profondamente. Fu un re misericordioso durante tutto il suo regno. Il regno era stato ispirato da Tom Canty e dalla sua onestà. Re Edward e Tom Canty rimasero amici intimi per il resto della loro vita. Fine. Il principe felice. Un giorno in cielo, Dio trovò due dei suoi angeli seduti a non fare niente. Sembravano infelici. Su via! È il paradiso. Non potete essere infelici in questo magnifico posto. Qual è il motivo della vostra infelicità? Non abbiamo niente da fare. Non potendo fare nulla, noi siamo molto insoddisfatti. Va bene. Andate e raggiungete la terra, prendete le due cose migliori che trovate nella città e portatemele. E così i servi di Dio volarono via dal cielo e andarono sulla terra. Una statua era situata nel cuore della città. Era coperta d'oro. I suoi occhi erano fatti di zaffiri blu. C'era un prezioso rubino sulla cintura. Era un esempio per tutti di grande felicità. Quindi tutti lo chiamavano il principe felice. Oh, tesoro mio, perché stai piangendo? Su, devi essere felice, proprio come il principe felice. Ben presto arrivò l'inverno. Il sole stava calando e una piccola rondine stava cercando un riparo per la notte. Volò vicino alla statua e pensò: per una notte posso stare vicino alla statua, non sentirò freddo qui. L'uccello rimase lì, sotto la statua, tra le sue due gambe. Poco dopo, una goccia d'acqua cadde sull'uccello. L'uccello guardò il cielo, ma il cielo era chiaro. Da dove viene questa goccia d'acqua? Non sta piovendo! Una seconda goccia cadde sull'uccello. L'uccello era sorpreso. Decise così di trovare un altro rifugio per ripararsi. Si posò sulla spalla della statua, osservò la statua e che sorpresa! La statua stava piangendo! Ehi! Perché stai piangendo? Tu sei il principe felice! No, non lo sono più. Perché? Cos'è successo? Quando ero vivo, ero molto felice. Vivevo in un palazzo e non uscivo mai. Giocavo felicemente nel mio giardino durante il giorno e la sera danzavo. Ero come ogni altro essere umano. Avevo un cuore come tutti gli altri. Ho trascorso la mia vita felicemente in casa e non ho mai conosciuto la vita al di fuori delle mura del palazzo. Sono stato molto contento del mio piccolo mondo e per questo mi hanno chiamato il principe felice. Ma ora che sono morto, mi hanno messo qui, al di sopra della città. Posso vedere l'altra faccia della moneta. Posso vedere la gente e le sue sofferenze. Anche se il mio cuore è di metallo, riesco ancora a sentire i loro dolori. E quindi piango, piango sempre. Oh, e ora perché piangi? Posso vedere una signora. Vive lontano dalla città. È troppo povera per allevare suo figlio. Sta cucendo un vestito per una delle dame della regina, per un ballo al palazzo. Il suo bambino piange e ha tanta fame, ma la signora non ha niente per nutrirlo. Lei può solo offrirgli l'acqua del fiume. Oh, mi dispiace. Potresti prendere il mio rubino rosso e portarlo alla signora. Lei ne ha bisogno. Devo andare in Egitto. Tutti i miei amici sono migrati in Egitto. Lì fa sempre caldo, non c'è l'inverno come qui, sai? Per favore, rondine, fammi questo grande favore. Ah, va bene. Stasera starò qui con te e andrò da quella signora domani mattina. Grazie, amico mio. Al mattino, l'uccello rimosse il gioiello rosso del principe e volò nella direzione indicata dal principe. L'uccello volò sopra la città e sorvolò il palazzo. L'uccello vide due ragazze che danzavano e una bella ragazza in piedi davanti alla finestra. Oh, desidero avere il mio bel vestito al massimo in un giorno o due. Perché la signora perde così tanto tempo? L'uccello volò sopra la città, attraversò il fiume e si avvicinò ad un villaggio, dove vide la signora dormire nella sua piccola casa. L'uccello mise il gioiello rosso sul tavolo. Poi volò intorno al letto, sopra il neonato. Soffiò dell'aria con le ali sul viso del bimbo, così che si addormentò. L'uccello volò dal principe. Al suo ritorno verso la città, l'uccello si recò al fiume perché era molto assetato. Mentre l'uccello stava bevendo l'acqua del fiume, uno scrittore lo vide e pensò: oh, la rondine è ancora qui. Non è migrata in nessun paese caldo. Con coraggio affronta questo clima, anche se non è adatto. Devo imparare dal suo esempio. Anche se ho fame, devo finire la mia storia al più presto. L'uccello tornò dal principe e lo scrittore tornò a casa sua con una storia in mente. È strano! Sento uno strano calore, anche se fa freddo qui fuori. È il calore della buona azione che hai fatto oggi. Sì, hai ragione. Partirò domani verso l'Egitto. Non andare, per favore. Ho bisogno di un altro favore da te. Oh no! Cosa devo fare adesso? Lontano dalla città, posso vedere uno scrittore che sta scrivendo una storia, ma non può completarla perché è affamato. E non c'è nemmeno il camino acceso nella sua stanza. Vive lì, in una piccola stanza sulla cima di una casa. Dimmi, cosa vuoi che faccia? Uno dei miei occhi e ti prego, portalo a lui. Il tuo occhio? Non posso farlo! Per favore, fallo! È una pietra blu preziosa dall'India. Aiuterà lo scrittore a vivere molto bene. Va bene. Rimarrò con te stasera e andrò dallo scrittore domani mattina. La mattina successiva, l'uccello prese uno degli occhi del principe e volò via alla casa dello scrittore. Trovò facilmente la casa e entrò attraverso il foro sul tetto. Lo scrittore era seduto sul tavolo con il capo chino. L'uccello posò la pietra blu sul tavolo e volò via. Lo scrittore guardò la pietra. Sarà forse un regalo da parte dei miei lettori? Grazie mille, anonimo amico. Lo scrittore era felice di avere la preziosa pietra blu. Quando la luna si alzò, l'uccello tornò dal principe. Sono venuto a salutarti. Andrò in Egitto domani mattina, sai? Ti piacerebbe rimanere con me per un'altra notte? Principe, presto arriverà l'inverno e il sole e il calore lo trovo solo in Egitto. Devo andare lì al più presto. Ti prego, fermati e salva la vita di una bambina. La vita di una bambina? Sì, c'è una bambina in piazza. Stava vendendo delle uova, ma sono cadute a terra e si sono rotte. Ora la ragazza non ha più soldi da portare a casa. Suo padre la picchierà se tornerà a casa senza soldi. Ma come posso aiutarla? Prendi l'altro occhio e regalalo alla ragazza. Suo padre guadagnerà molto bene vendendolo. Così non costringerà più la bambina a lavorare. Piuttosto la manderà a scuola. No, no. Rimarrò qui con te. Non posso staccare l'altro occhio. Non potrei più vedere così. Per favore, fallo. Per favore. L'uccello si sentì molto triste a togliere il secondo occhio al principe. Lui prese il gioiello e lo lasciò cadere nelle mani della ragazza. La ragazza fu molto felice di avere il gioiello. Ah, guarda che bel cristallo! La bimba corse verso casa. L'uccello tornò dal principe. E si sentiva molto triste per lui, perché egli non aveva più occhi. Tu sei un buon principe. Non partirò più. No. Adesso tu devi andare in Egitto. Sarà molto difficile sopravvivere qui in inverno. No, non ti lascerò più. L'uccello rimase con lui. Raccontò al principe molte storie e lo intratteneva. Il principe era felice di sentirle. Oh, amico mio, ti prego di volare sopra la città e dimmi cosa sta succedendo. L'uccello volò sopra la città e disse al principe cosa vide. L'uccello poi tornò dal principe. Le persone ricche si godono la vita, mangiano e bevono nelle loro case. D'altra parte, i poveri stanno ancora affamati e senza cibo e in cerca di riparo. Ho visto alcuni bambini piccoli che soffrono questo inverno. Stanno sotto un ponte, ma una guardia non gli ha permesso di stare lì. Sono coperto di oro. Prendilo e distribuiscilo ai poveri. Loro non dovrebbero più soffrire. Ti ringrazio tanto, amico mio. L'uccello, tristemente, tolse tutto l'oro dal corpo del principe e lo diede alle persone bisognose. Essi furono felici di ricevere un po' d'oro. Posso comprare il pane? Oh, posso comprare il pane! Posso comprare il pane! Che bello, posso comprare il pane! Cadde la neve. Tutta la città era coperta di neve. L'uccello non riuscì a sopravvivere in quel freddo gelido. Morì in una notte. Quando il principe seppe dell'accaduto, la mattina seguente ebbe una strana sensazione. Era il cuore del principe, che si spezzò. Quando la gente vide l'uccello morto ai piedi del principe, si lamentò. Pochi ufficiali si avvicinarono al principe. Non è il principe, è così brutto. Sì, sembra più un mendicante che un principe. C'è un uccellino morto ai suoi piedi. Chi pulirà questo scempio? Penso che dovremo rimuovere la statua da questo posto. La sostituiremo con un'altra. rimossero la statua e la bruciarono. Ma il cuore spezzato della statua non bruciava. Così lo gettarono via. Dopo un paio di giorni, gli angeli di Dio tornarono in cielo con due cose e le offrirono a Dio. Cosa mi avete portato? C'era un uccello e un cuore rotto di metallo. Dio gli chiese perché quelli sono le due cose migliori della città. Gli angeli dissero a Dio che il cuore appartiene alla statua del principe felice. Avete fatto un ottimo lavoro, davvero. Entrambe queste cose sono le migliori. Li conserverò nel mio giardino. L'uccello canterà belle canzoni e il principe felice risiederà nella mia splendente città d'oro.